You're asking what is socialism and what it really means. It's equal rights for every man, regardless of his strength. So don't let no one fool you, Joshua said. Listen as I tell you, Joshua said. No man are better than none. Socialism is love between man and man. Socialism is love for your brother. Socialism is linking hearts and ends. Would you believe me? Poverty and hunger is what we're fighting. Socialism is. Ebbene, buonasera, buonasera a tutti, sono di nuovo io, il vostro Roberto. Da oggi in poi mi troverete in questo nuovo orario, sempre il martedì sera, perché faccio partire questa mia piccola e corta oretta dedicata alla musica Roots da Brag con il mio programma che, come ha detto la compagna Antonella, si chiama appunto Roots Corner. One man have too many, while too many have too little. Socialism don't stand for that, don't stand for that at all. Socialism is love for your brothers. Socialism is linking hearts and ends. Poverty and hunger is what we're fighting. Socialism is sharing with your sister. Socialism is people pulling together. Would you believe? E non potevo aprire questa mia prima puntata facendo insomma un augurio di buon compleanno al grandissimo cantante Max Romeo, che all'anagrafe si chiama in verità Maxwell Livingstone Smith, che proprio oggi 22 novembre compie ben 69 anni, essendo nato a St. Annes Bay in una bellissima baia sulla costa occidentale della Giamaica il 22 novembre 1947. Socialism is sharing with your sister. Do you believe me? People pulling together. Oh. Love and togetherness. That's what it means. Socialism is love for your brothers. Socialism is linking hearts and ends. Poverty and hunger is what we are fighting. Socialism is sharing with your sister. Socialism. Ebbene, dopo aver sentito questo grandissimo pezzo che dedico un po' a tutti coloro che pensano che il reggae sia solo fare uso di marijuana, sentire poche altre scemenze, insomma, devo dire che con questo pezzo Max Romeo ci fa capire che il reggae può dare anche molti altri spunti interessanti per leggere il mondo attuale. Comunque, nelle scorse due puntate ho trattato per quel che ho potuto il panorama della dub e della roots attuale prima in Inghilterra e poi in Francia. Oggigiorno mi occuperò del panorama roots e reggae italiano, perché insomma anche in Italia, nonostante tutto i dissapori che ci sono stati dal punto di vista storico con la patria sacra del reggae e del rastafarianesimo quale l'Etiopia, oggigiorno sono molti sound system attivi dal nord al sud Italia, insomma dalle Alpi alle Piramidi, come si suol dire. Iniziamo subito e andiamo a scoprire un piccolo paesino della provincia di Belluno, Feltre, un paesino insomma che sorge ai piedi delle Dolomiti, accanto al confine con il Friuli Venezia Giulia, perché proprio qua nel 2005, da un'intuizione anche dalla volontà di un cantante producer molto molto importante nel mondo d'oggi, nel panorama dub attuale, vale a dire Denai, è stata fondata l'Imperial Sound Army, uno dei sound system più potenti che io abbia mai sentito negli ultimi tempi, e che infatti viene apprezzato in ogni angolo d'Europa grazie anche a Denai, che quasi ogni weekend si sbatte con il suo mitico camion e porta questo sound a suonare dalla Polonia alla Spagna fino al Portogallo. Denai è stato il cantante e produttore che all'inizio millennio gli è venuta questa grandissima passione per la musica dub, devo dire anche trattando temi alquanto ortodossi, e non è tutto, perché intorno al 2005 ha Ha iniziato a lavorare con importantissimi produttori e cantanti dub di fama mondiale grazie all'etichetta fondata dallo stesso Denai in quell'anno, che si chiama l'Imperial Roots Records. Ad oggi, come ho detto prima, l'Imperial Sound Army è uno dei sound system più attivi, lo potete ascoltare in tutti i più famosi festival dedicati alla musica dub di tutta Europa, e da qualche mese, mi sa che la prima serata c'è stata a fine maggio scorso, il Denai è un ospite, diciamo, ha iniziato una vera e propria collaborazione con la University of Dub a Londra, che possiamo dire che è la più importante istituzione europea per quel che riguarda il panorama di questo genere musicale. Noi adesso, per farvi ascoltare un pezzo suonato dallo stesso Denai sull'Imperial Sound Army, ho deciso di farvi ascoltare Rivers of Babylon, che insomma è un tune veramente che vale la pena, perché i bassi e le melodiche dello stesso Denai sono sempre un piacere ascoltarle. Ecco il pezzo. Bene, io vi devo confessare che la prima volta che ho sentito questo pezzo, che è stato il primo pezzo con cui ho conosciuto la stessa Imperial Sound Army, mi sono letteralmente innamorato di questo cantante, che infatti, come posso vedere tramite i miei vari collegamenti, le mie pagine Facebook legate a questo personaggio, è uno dei producer e dei cantanti più amati a livello dub, dal punto di vista non solo italiano, nazionale, ma addirittura internazionale, e si sta già pensando a un qualche cosa di intercontinentale, per esempio tour in Messico, insomma cose così. Comunque, da Feltre adesso facciamo a circa 200 chilometri e ci spostiamo a Milano, un po' la capitale del, non so, si sta avvicinando a Natale, la capitale del panettone, e in questa piccola cittadina, la seconda città più importante d'Italia, da qualche anno è attivo un altro sound system molto molto importante, vale a dire il Dread Lion Hi-Fi, che è uno dei sound storici della cosiddetta area milanesi, e i suoi ritmi ritmi che vengono chiamati proprio steppa style, con i bassi molto con i bassi profondi, sono una perfetta sintesi del mix tutt'oggi cercato da moltissimi altri sound system, non solo in Italia ma anche in Europa, tra sonorità reggae, electro, dubstep e dance. Il Dread Lion Hi-Fi ha avuto modo di lavorare, di collaborare nel corso degli anni anche con importantissimi MC di fama internazionale. Il pezzo che ho scelto, perché credo che insomma sia uno dei pezzi più caratteristici di questo sound system, e soprattutto perché è cantato con un bravissimo MC, vale a dire Rankin Dengado, è Roots in New Life. Vi ricordo che per qualsiasi, insomma, per gradimento, ma anche per chiedermi, per lanciarmi qualche chicca, per chiedermi di mettere su qualche pezzo specifico, potete chiamare il numero della radio, che è 06 49 17 50, ripeto 06 49 17 50. E adesso ci andiamo a sentire Rankin Dengado feat. Dread Lion Hi-Fi, Roots in Your Life. Bene, adesso da Milano facciamo un altro salto verso l'Italia orientale, vale a dire ci trasferiamo nella zona dell'Alto Adriatico, precisamente nella zona di Venezia, perché qui è nato dal 2001 uno dei più importanti collettivi di musicisti e sound system italiani. Sto parlando dei Muambessa, che insomma, se qualcuno mi ascolta, come i miei amici della Babylon Caffè al Quadraro o qualcuno che frequenta con una certa quotidianità anche le varie session che si tengono a Roma o in giro per l'Italia, non ha potuto non sentire almeno parlarne, perché insomma stiamo parlando di uno dei collettivi di musicisti più importanti dell'epoca attuale. I Muambessa nascono nel 2001 e sono formati dalla Selecta Buriman, dai cantanti Prince Devi e Imo Muambessa. Anche loro hanno una vera e propria etichetta discografica indipendente, la Muambessa Italy, con quale hanno prodotto vari dub plate, soprattutto negli ultimi tempi dub plate molto molto interessanti, e che vengono Tali da plate vengono regolarmente suonati da personalità come Giasciago, Abba Shantiai, persone che abbiamo avuto modo di conoscere nelle scorse puntate durante i più importanti festival internazionali, per esempio il Reg Bass che si svolge a Bruxelles, oppure l'International Dub Catering di Barcellona, il Dub Camp di Nantes. Gli stessi Moan Bess hanno avuto modo di collaborare anche loro con importantissimi artisti di fama internazionale e di essere presenti a questi festival che ho sovracitato. In più i Moan Bess sono uno dei sound organizzatori del cosiddetto Venice Dub Club, un evento mensile legato alla cultura e alla musica roots dub che si tiene a Marghera, piccolo paese in provincia di Venezia, e il prossimo appuntamento di questo evento legata alla Roots Culture si terrà il 2 dicembre, che però non è organizzato da Moan Bess ma da un altro importante sound system della zona di Venezia, Livy Rotation, e vedrà ospiti gli Ice Kankers, il gruppo di Ren che hanno che abbiamo avuto modo di ascoltare la scorsa volta. Questo pezzo che vi faccio sentire è uno dei più belli, uscito nel 2014, in cui ci sta il cantante Prince David che canta, e si chiama Watch Them. La voglio dedicare a tutte le persone, insomma, con cui ho avuto modo di andare almeno a un festival negli ultimi anni della mia vita, vale a dire Matteone, Marco, Roscio, Mirko, Giulio, Simone, Erbiondo, chi più ne ha più ne metta. Scusate se me ne scordo qualcuno, ma siete veramente tanti ed è un po' difficile. Watch Them. Watch them coming with a fire and missile, trying to conquer and fight for winner. Run, defending like a lion in the battle, not slam. Got to fight to live upright. Missile every day, every night, every time. Preserve and protect your life. Live to the light, standing by your side. Is the fire, no water, put it out. Discontent increase, the wailing is allowed. Never give up the struggling, better just stand firm. Them think we are the lambs, cause them think to be the wolves. Dignity and respect, miss, I cannot be changed. One is the man, miss, and one is the aim. Let the feel and flow of bad mood should be switched. There's something else better than violence to teach. So then got to know to love and to be loved is the greatest thing a man could learn. Filling our heart with joy, much more than silver and gold. Watch them coming with the fire, I miss a trying to conquer and fight what we not run, defending like a lion. Ho appena saputo che Roscio mi sta sentendo, quindi questa la dedico essenzialmente a lui, al mio mitico compagno del Quadraro, con cui praticamente ogni weekend mi vado a fare una qualche serata. Discontent increase, the wailing is allowed. Never give up the struggling, better just stand firm. Them think we are the lambs, cause them think to be the wolves. Dignity and respect, miss, I cannot be changed. One is the man, miss, and one is the aim. Let the feel and flow of bad mood should be switched. There's something else better than violence to teach. So then got to know how to love and to be loved is the greatest thing a man could learn. Filling our heart coming with a fire, me say trying to conquer and fight, but we not run, defending like a lion in the battle and slam. And me say watch them coming with a fire, me say trying to conquer and fight, but we not run, defending like a lion. Bene, lasciamo la bellissima città lagunare, la sua splendida piazza San Marco, e ci trasferiamo in un'altra città, insomma, che nel corso dei secoli ha fatto la storia un po' dell'Italia, vale a dire Firenze, la città per eccellenza di figure culturali quali Dante Alighieri o Filippo Buonarroti, ecco, insomma. Ci trasferiamo a Firenze perché proprio qua nel 2007, da un'intuizione di Laponetti e Lorenzo, è nato un altro importantissimo sound system che oggigiorno è molto molto attivo sulla scena italiana e non solo, vale a dire Jazz Station Sound System, un impianto autocostruito nel 2007 con il quale sia Lapo sia Lorenzo cercano di contrastare la logica del profitto e del business, e in ogni loro session si respira un alto livello di militanza grazie ad una cultura della musica roots dub a 360 gradi, perché vengono messe su delle canzoni che variano dalla roots anni 70 allo ska, rocksteady, fino alla digital steppa degli ultimissimi anni. D'altronde ricordo anche che, insomma, lo stesso Jazz Station Sound System è stata ospita allo Juno, il più importante meeting di cultura della roots dub che si tiene ogni anno in Inghilterra, in dei posti quasi favolistici, perché, insomma, mi pare che 2 anni fa si sia tenuto nel nord del Galles, dei posti di una bellezza anche dal punto di vista naturalistico, e poi, insomma, è stato l'ultima volta che ho avuto il piacere di vedere Abba Shantiai a Roma nel novembre del 2014, era stato proprio invitati dallo stesso Jazz Station Sound System. Il pezzo che sto per mettere, che si chiama Ark of Covenant, è una richiesta, diciamo, esplicita dello stesso Lapo, che ringrazio e saluto, come vorrei salutare, insomma, tutti i miei amici o compagni fiorentini, tra cui la Santa Chiaretta, che credo che mi stia ascoltando da quel di Firenze e con la quale sto seguendo il master in giornalismo ambientale. Adesso vi faccio sentire Ark of Covenant di Maximilian, ed appunto un pezzo che mi ha consigliato lo stesso Lapo, il selecta della Jazz Station Sound. Vai. Abyssinians, you got to know about your culture. Yeah. Yeah, yeah. Ethiopia, Ethiopia, Ethiopia, Ethiopia. Ethiopia. Reasoning the other day with my agent Ruby, and show I, yes, he show I, that the Ark of a Covenant is in a Ethiopia. Ethiopia. But the Ark of a Covenant is in a Ethiopia. Ethiopia. King David from Kenya is in a Ethiopia. King David from Kenya is in a Ethiopia. Vi ricordo che per mostrare la vostra gratitudine potete fare uno squillo per qualche trill, il numero, lo ripeto, è 06 49 17 50, è sempre una presa bene sapere che anche altra gente gradisce quello che te ami di più dal punto di vista della cultura musicale. Ethiopia, yes, King Menelik, son of King Solomon, King Solomon. na Ethiopia. Ethiopia, the Yahava covenant is in Ethiopia. Ethiopia, reason the other day with my idren Rubin and him show me, yes him show me that the Yahava covenant is in Ethiopia. Ethiopia, in long time days ago, was called Abyssinia. Long time days ago, it was called Abyssinia. Oh yeah, yeah, yeah. Oh gosh. Oh yes, oh gosh. The Ark of a Covenant is in Ethiopia. Ethiopia. Bene, lasciamo la cupola del Bon Giotto in quel di Firenze e ci trasferiamo all'interno del grande raccordo anulare. Perché? Perché proprio qua, dalla cooperazione di Michael Exidas, Makelesh e Pavo One, nasce uno dei più importanti sound system dell'area romana, che si attivo tuttora, vale a dire l'Ital Skunk Sound System. Questo gruppo di tre giovani ragazzi, che sono giovanissimi, hanno più o meno la mia età, ha creato questo sound system che negli ultimi tempi sta suonando anche con una certa regolarità qua e là in giro per i vari locali e centri sociali della capitale, per far conoscere e promuovere la musica roots e la cultura del sound system. Tutto questo grazie ad un vero e proprio mixer, grazie al quale soprattutto Michael e Makelesh riescono durante le loro numerosi session a produrre ottime vibrazioni cercano di farci conoscere appieno un genere musicale come quello reggae, con tutte le sue ramificazioni più disparate, vale a dire la steppa, la dub, la roots, la digital reggae, la melodica. Il pezzo che ho scelto per farvi conoscere l'Ital Skunk Sound System si chiama Rasta Salute, ed è un pezzo in cui Ital Skunk Sound System incontra Naya Bingman di Gestation. La Shun è un estratto della puntata del 27 settembre 2016, andata in onda sulla radio rootslegacy.fr, una delle più importanti emittenti radiofoniche della Francia legate alla roots culture. Questo pezzo lo vorrei dedicare, oltre a Pav One, Michael Exidas e Makelesh, anche a mio fratello, insomma, Brad Aberni, Matteone, anche Jaman, che sono le persone, insomma, con cui ci trovo spesso, anche loro durante le varie session che vado a sentire nel corso dei mesi. Questa qua è Rasta Salute e sono gli Ital Skunk Sound System che incontrano Naya Bingman. Jumpy Master Rhythm, Naya Bingman, Out of Gestation Sound System, it's Ital Skunk. Listen to this one, special request, the one and all, it's a Rasta Salute. Rasta Salute, we make the Rasta Salute. Fire as a bomb, a Babylon, them persecute. Rasta Salute, we make the Rasta Salute. Come Babylon, a listen, fast and listen. Rasta Salute, Rasta Salute. Red is a sister. Don't pressure, make the people insecure. Rasta Salute, we make the Rasta Salute. Rasta Salute, I am big man, I call Skunk. The jungle, but we have to stand tall. No matter if the wicked put your back against the wall. Life is a jungle, but we got to be strong. Fight, we have fight as a roaring lion. Too many youth, them are living up there. Each and every day, them see life as a mess. Well, if I'm problem, compromise me flex. Can't take no more in a disaster. Stress why me, Rasta Salute, we make the Rasta Salute. Fire off a bunk of Babylon, them persecute. Rasta Salute, we make the Rasta Salute. A Babylon, a frat, comes a killing and load. Rasta Salute, we make the Rasta Salute. When we live down pressure, make the people insecure. Rasta Salute, we make the Rasta Salute. Be away from them temology, can put up the kill. A big calamity on the ground wheel of the immorality, bigotry is created by the influence. Yes, I live a brand new day. Check Titans Cut on SoundCloud. Rastafari up one royalty. Come and pound the earth and destroy malicious things. We chant, we are praise and we highlight the king. Rasta salute, sir, Rasta salute. I will give thanks to the Most High Emperor Haile Selassie. I Rastafari, the guy and I in a righteous way of sin. Step out of the way of sinner. Sit up on the seat of discomfort. Yell Jah. Life is a jungle, but we have to stand tall. No matter if the wicked put your back against the wall. Life is a jungle, but we got to be strong. Fight, we are fight as a roaring lion. Too many you, them are living out there. Each and every day, them see life as a mess. Well, if I'm problem, I don't mind. Can't take no more. Salute, we make the Rasta salute. A Babylon, a fraud, come for killing and loot. Rasta salute, we make the Rasta salute. When we live down pressure, make the people insecure. Rasta salute, we make the Rasta salute. Away from them etymology, can put up the kill. A big calamity from the ground wheel. Of the immorality, bigotry is create bad influence. Rasta salute, we make the Rasta salute. Come out the land and persecute. Rasta salute, we make the Rasta salute. Come out the land and from them comes for killing and loot. Ed ecco la melodic version fatta dallo stesso Michael Exidas, che insomma ringrazio ancora profondamente. Dopo averci deliziato lo stesso Michael Exidas con la sua bellissima melodica, ci trasferiamo sempre all'interno del grande raccordo anulare, ma nella zona del Tufello, del Brancaleone, insomma di Piazza Sempione, via Nomentana, perché proprio qui nel 2002 è nato un prima come progetto musicale e poi dal 2006 è diventato un vero e proprio sound system, la Double Track Sound System, che è formata dal producer Emil Mann, che saluto e mando un grandissimo abbraccio perché anche lui insomma è stato fondamentale nella scelta del pezzo che vi farò sentire tra qualche minuto, più dai due MC Danny Double e dal Selecta Bobby Cuff. La caratteristica, diciamo, del double track è che è uno molto molto attivo sulla scena romana ed italiana, ed è un po' insomma quello che grazie a lui ho conosciuto tutti i personaggi, per esempio Denai, perché l'ho sentito una volta durante una session organizzata proprio dalla Double Track Sound System allo Spintel Labs. Oltre appunto a essere assidui frequentatori di numerosi centri sociali di tutta Roma, la stessa stessa Double Track Sound System ha collaborato con numerosi artisti di fama internazionale ed ha partecipato anche ad importanti festival italiani e non. Ad esempio è stata ospite al mitico Rototom Sound Splash, quando però questo importantissimo festival si era già trasferito a Benicassim in provincia di Valencia e non era più a Osoppo in provincia di Udine. Il pezzo che ho scelto è una collaborazione, è un'autoproduzione per essere esatti, della stessa Double Track Sound System con appunto il Buon Denai, che mi è stato consigliato appunto da Amy, insomma da ML Amman, e che voglio insomma ringraziare nuovamente, anche perché non ci lega solamente questa passione per questo genere di musica, ma anche dal punto di vista del tifo calcistico siamo abbastanza vicini. Questo è Denai Sija con un'autoproduzione prodotta con la Double Track Sound System. Ooh. Bene, dopo questo momento, quasi 4 minuti di musica veramente psichedelica, perché questo è uno dei pezzi più belli che io abbia mai ascoltato in assoluto. Nel 2009 l'ho conosciuto pochissimi anni dopo, mi sa che già nel 2011 lo ebbi modo di ascoltare durante la Dub Station al Rototom, se non ricordo male. E ci trasferiamo a Napoli. A Napoli perché? Perché lì dal 2004 attivo un altro sound system molto molto importante, il Baba Boom Hi-Fi. Questo sound system è così legato al suo lavoro, a quello che trasmette, agli ideali che porta avanti, ai messaggi che cerca di diffondere anche a tutte le persone che frequentano le sue numerose session, che ama definirsi un vero e proprio roots defender. Più che altro è uno dei sound, lo stimo tantissimo ed è sempre un piacere ascoltarlo, perché insomma è uno dei sound system più attivi nella zona di Napoli, che come sappiamo per vari motivi non è che sia proprio una città facilissima sotto molti punti di vista. Tutto questo però viene preso ancora più come stimolo dallo stesso Baba Boom Hi-Fi, che cerca di portare avanti in vari modi, per esempio organizzando delle session nella bellissima cornice del Parco dei Camaldoli o nella storica officina, lo storico centro sociale Officina 99, dove sono nati anche un gruppo quali 99 Posse, che insomma hanno fatto la storia di un altro genere musicale italiano. Però insomma, ecco, anche a Baba Boom Hi-Fi, nonostante i vari problemi che si riesce, che deve affrontare anche quotidianamente, gli stessi spostamenti del sound sono cosa abbastanza difficile, cerca di portare avanti questa sua grandissima passione, per me fino adesso in ottima, cioè ottenendo ottimi risultati. Il pezzo che vi vado a proporre è un pezzo che mi hanno consigliato gli stessi Baba Boom Hi-Fi, che quindi anche ringrazio e spero che magari in qualche modo mi stiano ascoltando, e si chiama Strength and Power ed è stato, cioè, un pezzo dove ci stava bene la base musicale scelta dallo stesso da Baba Boom, e il cantante è un certo Kojo Nitness. Il pezzo si chiama Strength and Power, c'è pure la dub version, e eccolo qua. We'll see you right away. Power. Bene, concludiamo questo viaggio alla scoperta della, del panorama roots dub italiano attuale, trasferendoci nella penisola salentina, dove dal dove insomma troviamo un altro importantissimo sound molto molto attivo negli ultimi anni, vale a dire il Black Star Line Sound System. Il Black Star Line Sound System è il più importante sound autocostruito nel, nel Salento, la zona diciamo che per antonomasia viene conosciuta come la, la Giamaica d'Italia, perché qua ogni anno, specialmente nel periodo estivo, si tengono moltissimi concerti reggae, insomma legati alla cultura la piccola isola caraibica. La, la caratteristica che insomma che interessa il Black Star Line è che è una delle che si rifà, ricordiamo, specialmente al, alla, alla compagnia navale fondata nel 1919 da Marcus Garvey, che insomma i veri conoscitori della, del del panafricanismo e della cultura rastafariana conoscono molto bene. Dicevo, il Black Star Line Sound System è ancora uno dei pochi esponenti salentini legati alla roots and dub culture. Col suo sound anche lui ha girato moltissimi festival italiani, ad esempio lo Zion Festival o il Natural Roots. È stato anche un ospite fisso dei vari RAS, gli incontri dei vari sound system che si tenevano in varie parti d'Italia. Ne ricordo uno che si è tenuto qua a Roma nel giugno del 2011 nella cornice del Villaggio Globale, e soprattutto ad oggi con i suoi potenti bassi e la sua qualità, e per la sua qualità resta uno dei migliori sound system che io abbia mai avuto il modo di ascoltare negli ultimi anni. Le stesse cornici, per esempio gli ulivi salentini persi in queste valli senza nessuno, sono veramente una bellissima cornice dove tenere le varie session che organizzano gli stessi Black Star Line. Per farvi capire chi sono, ho deciso di selezionare un pezzo che si chiama Proving Lion dei Disciplies, ed è un pezzo che mi è stato consigliato dagli stessi Black Star Line, in particolar modo dal Selecta Marco, perché è uno dei classici che i Black suonano sempre durante le loro session. Questo qua è appunto sono i Disciplies ed è il pezzo Proving Lion. Mando un abbraccio ai compagni salentini che anche lì, nonostante tutto e vivendo in una terra piena di contrasti e problemi, cercano di portare avanti con ottimi risultati la cultura legata alla musica dub e al sound system. Questa è Proving Lion e dei Disciplies. Qui continuano ad arrivare trilli ed è una cosa che mi fa molto piacere. Ringrazio tutti quelli che stanno pensando di condividere questa gioia e questa passione per la musica dub insieme a me. Give thanks, man. Bene, purtroppo giovedì scorso è arrivata una nuova la sentenza di secondo grado legato al cosiddetto maxi processo Notav, in cui 38 dei 53 imputati tra gli attivisti appunto Notav sono stati condannati a 84 anni di carcere totali, più o meno a 2 anni e 3 mesi di reclusione a testa. Tutto questo perché ancora si sta portando avanti un processo che deve cercare di capire cos'è successo tra la fine di giugno e l'inizio di luglio del 2011, quando in Val Susa ci furono dei violentissimi scontri nella zona di Chiomonte. Questo pezzo che sto per mettere, che si chiama I Was Born to Be a Rebel, è dedicato a tutti i compagni Notav e anche ai 3 ragazzi fermati a Magliana il 5 novembre scorso, di cui domani mattina a Piazza Le Glorie alle 9:30 si terrà un presidio di solidarietà con ancora le 2 persone che si trovano in carcere e quella agli arresti domiciliari. Insomma, questo pezzo è dedicato a tutti coloro che per un motivo o per l'altro vengono privati della loro libertà quotidiana. Rotterdam, I was to be a rebel. I was born to be a rebel. Lion of Judah shall break every chain. Yeah. I was born to be a rebel, and no one can ever change me. Un abbraccio forte anche al compagno Valerio di Ostia, che lavora anche lui nella redazione di questa bellissima radio. A lui. To be a rebel, you've got to La dedico di nuovo a Valerio, che insomma fa sempre bene dedicarla a colui che mi ha fatto entrare in questa redazione della radio. Comunque, oltre a essere oggi 22 novembre il compleanno, i 69 anni di Max Romeo, è anche il compleanno di un altro grandissimo bassista del panorama reggae dub internazionale, vale a dire di Aston Barrett Family Man, che è nato a Kingston, la capitale della Giamaica, il 22 novembre 1946, quindi insomma mandiamo anche un augurio da quel di Roma a uno dei più bravi bassisti che insieme al di tutti i tempi, che insieme al fratello Carlton era il duo appunto di bassi del gruppo The Wailers, un certo gruppo fondato da Bob Marley, Peter Tosh e Bunny Wailer. Oggi lo stesso Aston Barrett continua a suonare ancora con il gruppo, che in qualche modo, anche se dei membri originali non è rimasto quasi nessuno di quel gruppo di persone che ancora si fa chiamare i Wailers, e porta con loro in giro per il mondo, diciamo, i pezzi che hanno reso famoso Bob Marley negli anni d'oro della sua carriera, vale a dire Get Up, Stand Up, I Shot the Sheriff, No Woman, No Cry, Catch a Fire e chi più ne ha più ne metta. Una piccola curiosità: è soprannominato Family Man perché ha circa pare 52 figli, sia padre di ben 52 figli. Noi adesso di Aston Barrett ci andiamo a sentire proprio una velocissima canzone, perché tra un po' devo lasciare la parola e il microfono al compagno fantasma di Do It Yourself, che si chiama Dubbing Naturally, e questo qua è un pezzo in cui ci sta Aston Barrett che mette al massimo, fa vedere al massimo quanto è bravo a suonare il basso. Sempre un dispiacere interrompere il buon Aston Barrett e il suo mitico basso, però qua il tempo stringe, il programma dopo tocca a lui, insomma. Io vi voglio salutare ricordandovi che sabato prossimo, 26 novembre 2016, ci sarà un'importantissima manifestazione contro la violenza maschile sulle donne, organizzata dal collettivo Uno di Meno, e insomma il concentramento per chiunque volesse partecipare alle ore 2 più o meno circa in Piazza della Repubblica, e si arriverà nel tardo pomeriggio a Piazza San Giovanni. Io vorrei insomma dedicare per ricordare questo anche importantissimo evento, che insomma trovo anche abbastanza significativo, dato che non si tiene un evento del genere dal 2008, mettendo un pezzo di Bob Marley, che insomma credo che No Woman No Cry ci stia proprio a pennello per ricordare un evento così. Questo però non è un No Woman No Cry come tutti gli altri, perché è una rare version, dato che ci sta il buon Peter Tosh che suona il piano. Dopodiché io vi saluto e passo il microfono al compagno Fantasma, che fino alle 22:30 vi tiene compagnia, e poi dopodiché sarà il turno di Morfire con Fabio e Gianni. Niente, buona serata a tutti, ci vediamo martedì prossimo, e vi lascio a No Woman No Cry con Peter Tosh al piano e Bob Marley che canta. We'll be right back.